Ciao Beppi, finalmente riesco, spero, a dire qualcosa riguardo alle domande che mi hai rivolto. Dici che state discutendo sul tema della... Penso si tratti del gruppo di cui fai parte, di coppie, di famiglie, e il tema della nostra morte, mi piace quel nostra perché mi ricorda San Francesco, laudato sii mi Signore per nostra morte corporale. E poi anche l'Ave Maria, Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori adesso e nell'ora della nostra morte. Beh, dunque, come prepararci perché essa sia un momento pieno di vita? Mi piace perché hai o avete il gusto dell'ossimoro. Una morte piena di vita per sé e per gli altri. Beh, innanzitutto, così a cuore aperto mi verrebbe da dire, ci si prepara vivendo, cioè vivendo la vita intensamente. Però per vivere intensamente la vita bisogna imparare a perdere. E non basta perdere, bisogna saper perdere. E Gesù per noi è stato l'esempio di come si perde, chi non perde la propria vita per lui, tra l'altro, ma no? Per me non la potrà salvare, ma chi perde la vita per me la ritroverà piena e per l'eternità. Ecco, perdere la vita per Gesù, cosa può voler dire? Penso significa cercare di camminare durante le nostre giornate ponendo i piedi sulle sue orme e la nostra incredibile meraviglia, fortuna, non so come definirla, di poter avere nel presente delle nostre giornate la chiarissima immagine, o meglio, poter riconoscere i contorni delle orme del Cristo che sempre ci precede. E queste orme sono sicuramente rappresentate dalla sua parola. Basta aprire il Vangelo e si scopre subito, no? Basta anche il Vangelo di ogni domenica, che cosa o quali siano i contorni delle orme che Gesù ci propone, ci chiede di ricalcare nelle nostre giornate. Ecco, io credo che ci si prepara a morire morendo le piccole morti quotidiane, la piccola morte alla mia volontà per scegliere la vita della volontà di Dio per me nell'attimo presente, la piccola morte della negazione, del no da dire al mio egoismo, dunque a ciò che grosso modo ruota intorno, tutto intorno a me, come dice il famoso slogan di quella pubblicità che purtroppo è deviante in maniera atroce rispetto alla verità, perché se tutto ruota intorno a me, ovviamente c'è spazio soltanto per ciò che io posso, come dire, esigere dagli altri, dalla realtà che mi circonda. E se questo è vita, ovviamente, allora siamo veramente fritti, perché la vita è più grande di me, la vita mi precede, la vita mi chiede di mettere al centro, ad esempio, ciò che ci caratterizza come uomini su questa terra. E cioè mettere al centro il limite. Ti invierò via posta elettronica, anzi te lo sto già inviando in questo momento, un articolo in cui tra l'altro sono apparso anch'io, vabbè, non avevo chiesto tanto onore, dove si racconta qualcosina di un'esperienza che stiamo facendo da un pochettino di tempo, ecco, insieme a un gruppo di persone delle Tre Venezie, alcuni sono disabili, altri per fortuna non lo sono, ma alla fine della fiera stiamo scoprendo da 5, quasi 6 anni a questa parte, che al centro, come diceva Dietrich Bonhoeffer, quel grandissimo testimone della fede protestante, professore di teologia, morto nel 1945, poche settimane dalla fine della guerra, dunque, no? Per ordine di Hitler, impiccato, dunque, no? Per la sua partecipazione al tentativo di rovesciare il regime nazista. E diciamo che di fatto per la sua testimonianza alla fede cristiana. Ecco, e come diceva Dietrich Bonhoeffer, nel libro della Genesi, nei primi tre capitoli, si coglie come al centro ci stia il limite costituito da ciò che consente all'uomo innanzitutto di distinguersi, cioè di non essere inglobato dentro alla natura come uno dei tanti elementi che la costituiscono, ma di distinguersi, ecco il limite, la soglia, di distinguersi in quanto creatura eletta da Dio per diventare il partner di Dio. E poi il limite che è evidentemente costituito dalla sua condizione di creaturalità. L'uomo si percepisce come essere creato. Nel momento in cui non si percepisce più come tale, ecco che prende piede il peccato originale, cioè la superbia di poter dire a se stessi o dare a se stessi una identità che non sia più collegata alla comunione profonda con il Creatore, ma che sia da vedersi collegata, come suggeriva il serpente a Eva, al desiderio di essere come Dio e senza Dio. E di conseguenza l'esperienza del limite come piccola morte quotidiana, limiti sono anche i miei limiti personali, voglio dire, cioè i difetti che mi ritrovo o con cui mi ritrovo da una vita a combattere, ma anche il limite costituito dalla mia pochezza, dalla mia inadeguatezza al compito che a volte mi si presenta come urgente. Personalmente tante volte ho fatto l'esperienza del limite quando ero insegnante, scoprendo dentro di me che ben più profonda doveva essere la conoscenza e dunque la preparazione riguardante determinate tematiche che poi andavo a presentare ai miei studenti. Ciò però non mi esimeva dal compito di essere comunque insegnante e cercare sempre di accompagnare in ogni caso, stando loro a fianco, i miei ragazzi a scoprire la loro strada, anche se sentivo la mia inadeguatezza riguardo a determinate problematiche in particolare. Poi il limite che si può manifestare nei fallimenti che sperimentiamo nelle nostre relazioni umane, da quelle importantissime come la relazione coniugale, a volte ci sono dei piccoli, a volte per qualcuno dei grandi fallimenti nella relazione con il partner. L'importante è poi ricominciare sempre, però il limite lo tocchi con mano, a volte sono relazioni di tipo familiare con i figli, no? Che senti, almeno io ho sentito, insomma, di non essere sempre capaci di essere all'altezza del compito insieme con il tuo partner, del compito di genitore. Ma che cosa vuol dire questo? Dio non ci ha, o non ci pretende, diciamo, non pretende che noi siamo perfetti, ma che siamo capaci di riconoscere il nostro limite, quello sì, l'umiltà di fondo, dunque, no? Che da tutto ciò può scaturire. Ecco, allora direi ci si prepara a morire facendo l'esperienza delle piccole morti quotidiane che il buon Dio ci propone di vivere, che Gesù nel Vangelo ci propone di vivere, quando ci rendiamo conto che seguire Lui non significa marciare intrepidi sulla strada o sulle strade dei presunti trionfi umani, delle vittorie che tutti inseguono, il mito del successo e quant'altro, ma con umiltà, cercando di far bene tutto quello che spetta a noi, anche saper, come dire, offrire per amore la nostra volontà di lasciare che emerga non il nostro io, non la vecchia creatura, direbbe San Paolo, ma quella creatura nuova che può nascere solo dal morire con Cristo. In fin dei conti mi viene in mente dunque che ci si prepara a morire vivendo il battesimo, perché come dice San Paolo, il battesimo è essenzialmente un morire con Cristo, essere immersi, dice la parola battesimo, no? Battizzo vuol dire immergo nella morte di Cristo e con Cristo per risuscitare con Lui. Subito già noi siamo risorti nel momento in cui accettiamo di vivere la nostra e la sua morte in Lui, in noi. Perché Gesù, in fin dei conti, nel battesimo nostro muore con noi, muore in noi per offrirsi per amore dunque al Padre. E siccome noi siamo in Lui incorporati, in Lui fatti corpo vivo, no? La Chiesa, corpo mistico del Cristo, di fatto fa con noi e facciamo noi con Lui l'esperienza della risurrezione già in questa vita. Ecco, dunque, per quello dicevo all'inizio, si muore imparando a vivere e per vivere imparando a saper perdere per amore. L'altra domanda, come prepararci alla nostra morte così che il nostro morire sia per noi un modo nuovo di inviare il nostro spirito e lo spirito di Dio a quelli che abbiamo amato e ci hanno amato. Ecco, qui più che inviare il mio spirito e lo spirito di Dio, Gesù ce lo ha già inviato. Non c'è bisogno che noi ci impegniamo a inviare il nostro spirito dopo la nostra morte o nel nostro morire. È vero che c'è una tradizione umana che dice, nelle culture umane si dice o si racconta che i grandi spiriti, i grandi uomini, avrebbero questa facoltà di comunicare nell'atto del lasciare questo mondo qualcosa di sé, qualcosa dello spirito a coloro che sono o discepoli o familiari o persone che in qualche modo sono vissute nella loro orbita, insomma, no? Ma io preferisco stare molto con Gesù, ecco. E cioè, diciamo che mi preparo a morire santificando me stesso, cioè cercando di vivere la santità, come racconta e come scrive bene il Papa Giovanni Paolo II nella Novo Millennio Ineunte, la lettera enciclica del 2001 che vi invito assolutamente ad approfondire in maniera proprio molto meticolosa, perché quella santità che è vivere accanto a lui, vivere di lui che unico è santo, insieme alla Madre sua Maria, di fatto consente a noi di generare intorno a noi tutto ciò che Dio vuole scaturisca da noi come vita, quella sorgente di acqua viva, no? Di cui parla Gesù alla Samaritana, che scaturirà da noi se noi aderiremo a questa novità strabiliante, che è il dono che Gesù ha fatto a noi, nel battesimo, poi nella cresima, di fatto nell'Eucaristia, del suo spirito. Ecco, per cui bella l'idea che col morire si possa arrivare a inviare lo Spirito di Dio, ma ancora più bella, secondo me, l'idea dell'acquisire lo Spirito, del cercare di acquisire lo Spirito, come insegnano i grandi padri della Chiesa, i padri dello Spirito, poi della spiritualità, i padri spirituali del passato, fino a Serafino di Sarov, per dire. Nel mio piccolo corso che troverai al terzo livello, il terzo livello del mio piccolo corso che troverai nel sito, nella home page, basta cliccare sulla croce di Aquileia che trovi subito. Al terzo livello io propongo alla fine, nelle ultime quattro conversazioni mi pare, di riflettere attentamente, di meditare su che cosa significhi acquisire lo Spirito Santo. L'acquisizione dello Spirito Santo è qualcosa che evidentemente prepara al nostro morire, ma sarebbe un po' sciocco, se mi permetti, pensare che Dio voglia questo per la nostra morte o per il momento della nostra morte. Dio lo vuole per la nostra vita perché risplenda in pienezza come Lui sa e come lui desidera anche nel momento della nostra morte, che non è altro che il gettarsi nell'infinito abbraccio del Padre. Ecco, per cui è meglio inviare lo Spirito di Dio da vivi, intendo, piuttosto che soltanto nella morte. E ritorno a dire, meglio stare con la visione degli evangelisti e di Paolo, che è Gesù che invia lo Spirito di Dio ed è Gesù che sarà presente in noi e noi saremo in Lui anche nel momento della nostra morte, come dice la lettera ai Romani, capitolo 14, versetti da 8 a 12, mi pare, una cosa così, e io sia che viva, sia che muoia, io sono di Cristo, sia che viviamo, sia che moriamo, noi siamo del Signore. E poi la tua domanda personale, secondo te tutti quelli che sono già in Dio e quindi non più assoggettati al tempo, stanno già vivendo nella vita nuova, nella risurrezione? Beh, innanzitutto Dio è la vita, che è in maniera incomparabile tutti noi, tutti i nostri cuori desiderano. Chi vive e chi è in Dio sta già vivendo della pienezza, tu intendi, anche a livello fisico. Beh, noi aspettiamo la risurrezione della carne, lo dice anche il credo, no? Il credo degli apostoli, il credo di Niceno Costantinopolitano. Secondo alcuni teologi che sottolineano molto la dottrina paolina, noi nel momento della nostra morte abbandoniamo dunque il corpo che siamo e che ci ha aiutato, ci ha reso possibile la vita sulla terra per unirci quella parte di noi che è lo spirito, poi l'anima, al Cristo al quale siamo già stati uniti sacramentalmente, ma realmente dunque, durante tutta la nostra vita. Per cui diciamo che se noi facciamo parte del corpo mistico, l'espressione corpo mistico non va intesa soltanto in termini metaforici. Di fatto noi nella comunione trinitaria di cui o a cui siamo ammessi a vivere con il nostro battesimo, siamo parte di lui, siamo cellule del corpo mistico, speriamo cellule vive, non cellule morte o cellule cancerogene o cancerose, insomma, no? Ecco, e di conseguenza già da vivi noi apparteniamo a lui, a maggior ragione al capo, no? Il capo del corpo mistico è il Cristo, a maggior ragione da morti. secondo questi teologi, noi continuiamo a, come dire, ad appartenere profondamente al nostro capo, ecco, anche se manca ancora, per una questione appunto di tempo che deve concludersi e che sta per concludersi, perché in fin dei conti Gesù è già venuto, no? Per cui siamo già nella fine dei tempi, noi, nel tempo della fine dei tempi. Però c'è ancora un po' di tempo perché il buon Dio vuole, dice San Paolo, che il Vangelo sia annunciato a tutte le genti. E guarda a quante persone, a quanti milioni di esseri umani il Vangelo non è ancora annunciato, no? Basta pensare alla Cina piuttosto che all'India, piuttosto che al Bangladesh, al Pakistan, eccetera. Quelli da soli fanno già più di 2,5 miliardi. E se non forse 3,5. E di conseguenza, diciamo che costoro vivono, quelli che sono già in Dio, vivono della risurrezione di Gesù, partecipandone ovviamente per grazia, con quella pienezza, a seconda che si trovino in purgatorio o che si trovino invece già in paradiso, che Dio desidera comunicare pienamente a loro, perché Dio quando ci guarda vede Gesù, penso tu sia d'accordo, certo, vede Giuseppe, ma vede Gesù trattino Giuseppe o Giuseppe trattino Gesù, come preferisci, perché noi, il fatto che siamo battezzati, stiamo, come dice San Paolo, acquisendo sempre di più la precisa fisionomia, ma non solo esterna, ma anche interiore, del Cristo. Per cui il cristiano è colui che comincia sempre di più ad assomigliare esteriormente e interiormente, soprattutto interiormente, al Cristo stesso, perfino nei sentimenti, come dice il capitolo, come dice la lettera ai Filippesi, mi pare capitolo 2, versetto 4. E dunque queste cose che mi hai suscitato io te le regalo così come mi sono venute e te le ho messe in questo link che tu basta che clicchi, ti si apre una finestrella dove tu puoi di fatto ascoltare la mia voce e questo file si potrà anche conservare perché a sto punto, siccome lo gestirai tu per quel uso che vorrai farne, ecco, basta che sia l'uso per cui è stato prodotto, no? Per aiutarci a camminare insieme. Nel caso non funzionasse il link, basta che mi rispondi all'email e sul tuo Skype ti troverai la file MP3 da scaricare comodamente. Io lascio, tu sai, praticamente sempre acceso il mio computer durante il giorno e anche fino a sera tarda. Con questo, in attesa di incontrarti e di incontrarvi, ti mando un grande abbraccio. Ciao Beppi.